sitze ich hier und programmier die Zukunft mir. Cose, la trasmissione della coordinamenta femminista e lesbica sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Gone to the other side with my encyclopedia. There must have paid her a nice price. She's putting on her stupid love. This is not really, this is not really happening. You bet your life it is. Ciao a tutte, ciao a tutti. Questa è una nuova puntata dei Nomi delle Cose e la vorremmo incentrare, almeno nella prima parte, sulla coordinamenta verso il 25 novembre. Spero che tutte sappiano cos'è il 25 novembre, spero che tutti sappiano cos'è il 25 novembre, insomma, la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Lo diamo per scontato, ma mi pare anche normale. Noi cerchiamo sempre di non farci schiacciare su queste date, no? Perché altrimenti sembra che una lavori tutto l'anno per due o tre appuntamenti che ci vengono anche dal di fuori, tutto sommato. Però allo stesso tempo non si può lasciare che queste giornate poi diventino soltanto un momento istituzionale così vuoto e privo di significato, e quindi quest'anno noi abbiamo incentrato il nostro percorso su un campo specifico che ci sembra particolarmente importante rispetto al momento che viviamo, cioè contro la norma e contro la legalità. Invece la seconda parte della trasmissione inizierà con una corrispondenza con una compagna di Milano, perché continueremo a parlare di carcere e questa volta nello specifico di detenzione femminile, quindi avremo una corrispondenza con questa compagna che ci racconterà la sua esperienza di persecuzione giudiziaria e poi se avremo tempo ci sarà la solita parentesi di Elisabetta e continueremo poi a parlare sempre di detenzione femminile. Allora, diciamo che il nostro percorso sul rifiuto della norma è vuole essere un'analisi a tutto campo, cioè un'analisi non soltanto del rifiuto della norma nello specifico femminista, ma del rifiuto della norma nel sociale e sulle conseguenze che questo comporta poi anche per noi donne. Abbiamo un articolo che è particolarmente illuminante in questo senso. A Roma la Procura prepara il blitz contro i movimenti di lotta per la casa. L'edizione romana del Corriere della Sera ha pubblicato un articolo piuttosto ben informato dai contorni inquietanti. Si evince che il pool antiterrorismo della Procura di Roma sta mettendo insieme gli elementi per avviare provvedimenti repressivi pesanti attraverso reati associativi contro i movimenti di lotta per la casa a Roma. La giornalista dimostra di intuire bene le contraddizioni di questo impianto repressivo e indugia anche sulle differenze interne ai movimenti per il diritto all'abitare. Ma il contesto e lo scenario lasciano intendere che gli apparati dello Stato, prestati anche da palazzinari e dagli speculatori romani, stanno lavorando per normalizzare un conflitto sociale metropolitano che si è andato estendendo anche ad altre città. Del resto il governo, sia nell'incontro con il ministro Lupi che nella conferenza Stato-Regioni, ha fatto ben capire di non avere l'emergenza abitativa tra le proprie priorità, né di voler mettere in campo soluzioni decenti e adeguate ai problemi sociali posti. Ragione per cui se la rota non c'è si passa al bastone. Qui di seguito l'articolo in questione. L'articolo del Corriere della Sera di venerdì 8 novembre. Ruderi, uffici e case appena ultimate. Il dossier sulle occupazioni è sul tavolo della Procura. Si sta valutando anche l'ipotesi di reato associativo. Negli ultimi 2 anni 22 azioni dei movimenti per la casa. Ci rimettono anche i costruttori, certo. In 2 anni gli Scarpellini, Caltagirone e gli Armellini hanno perso, a quanto risulta, un casale a Spinaceto, Scarpellini, un fabbricato a Ponte di Nona, Caltagirone, e un edificio a Tormarancia, Armellini. Presi di mira anche alcuni fondi bancari come l'Upside della BNP, proprietaria dell'edificio in via Musa, Policlinico, occupato il 6 aprile scorso. Ma va assai peggio agli enti locali, edifici, case, uffici e perfino pezzi di architettura monumentale. Non fosse la città dell'emergenza abitativa irrisolta, dramma per migliaia di famiglie, si potrebbe parlare anche del danno erariale. Un dossier realizzato nel 2012 dall'ex presidente della Commissione Sicurezza Fabrizio Santori, con la collaborazione dei municipi, e ora depositato al PM Luca Tescaroli per un'inchiesta su alcune occupazioni abusive, censiva 57 occupazioni stanziali, ormai storiche, un patrimonio pubblico sotto ipoteca. Ma l'elenco ufficioso dei movimenti, tra cui blocchi precari metropolitani, Action, ASIA, lo integra con altre 22 occupazioni. Edifici che, secondo gli stessi movimenti, ospitano all'incirca 2.000 famiglie, bambini, anziani, persone ammalate. C'è un altro modo per dormire al coperto? Senz'altro sì, ma i dati sull'abusivismo nelle case popolari non aiutano. 5.100 famiglie abitano le case ATER senza alcun requisito. Solo in Piazza Indipendenza sono precariamente alloggiati 400 nuclei di rifugiati. 185 famiglie vivono nell'albergo dell'ex Unicredit di via Prenestina. Un centinaio di altre si sono sistemate nelle sedi INPS dismesse di Casal Boccone. Certo, ci sono anche le storie stravaganti. Il tizio che tutto solo occupa abusivamente una porzione dell'edificio comunale in via Salaria 144, senza cedere di una mattonella, benché già perseguito penalmente per tale illecito, spiega la relazione dei vigili del secondo gruppo sul Rambo del metro quadro. L'incontro di ieri sull'ex edificio ACEA occupato a Tor dei Schiavi si è rivelato deludente, secondo i sindacati dell'Unione Inquilini. L'amministrazione è senza idee. Solo recentemente il pool antiterrorismo, coordinato dal procuratore aggiunto Giancarlo Capaldo, ha deciso di esaminare il fenomeno delle occupazioni in modo sistematico. Si sta valutando l'ipotesi di un reato associativo che però non sarà semplice da dimostrare. Davvero Casa Pound e Action hanno strategie e obiettivi comuni? Possibile che il coordinamento cittadino di lotta per la casa sia in linea con i Neo No Global DESC? Gli investigatori interpretano anche i nuovi segnali. Action, ad esempio, da quando è arrivato il nuovo sindaco, ha mantenuto un basso profilo. Protagonista di vari blitz nel 2012, da qualche tempo è assente. Non ha partecipato all'occupazione di alloggi a beneficio degli indignados che si sono dati appuntamento per la manifestazione del 19 ottobre scorso ed è rimasta defilata anche al corteo non autorizzato in via del Titone il 1 novembre. Si vedrà se è un segno di pace lanciato alla nuova amministrazione. Allora, è chiaro che questo articolo che vorrebbe fare una panoramica sull'occupazione, sulle situazioni di occupazione a Roma, ci dice una cosa gravissima, cioè ci dice che il pool antiterrorismo sta elaborando delle strategie per occuparsi della lotta per la casa. Vuol dire che tutto quello che è contro la cosiddetta legalità, tutto quello che è rivendicazione anche di semplici diritti, diventa illegale, perseguibile e terroristico. chiaramente non abbiamo bisogno di un giornalista del Corriere della Sera per ricordarci che lo Stato, questo Stato, risponde sempre con repressione a ogni iniziativa che sia di antagonismo, ma anche soltanto di resistenza a questo stato di cose, perché più si va avanti e più veniamo, insomma, ci vengono sfilate le primarie garanzie di vita, di sostentamento, e quindi chiaramente con le etichette che si modificano nel passare degli anni, ma significano sempre la stessa cosa, perché veniamo definiti una volta Black Bloc, una volta antagonisti no global, l'altra volta adesso siamo arrivati di nuovo a sdoganare questo termine terroristi, che viene da, appunto, appiccicato dai ribelli della Val Susa a tutti, a tutto poi il resto della penisola. Noi e anche streghe. Streghe, insomma, sulle donne poi sì, è chiaramente uno snaturamento della propria femminilità, no? È ancora più angosciante per un poliziotto o per un uomo di Stato vedere che ci sono anche le donne in queste lotte. E proprio a questo proposito stiamo per chiamare questa compagna di Milano, che appunto ci racconterà la sua esperienza, perché forse, insomma, bisogna un po' fare i conti con il fatto che, appunto, la detenzione carceraria o comunque la repressione anche giudiziaria è una parte, è un aspetto con cui bisogna confrontarsi per non rimanere impreparati poi quando capita, perché qualsiasi come ti muovi qui. Questo ovviamente non ci deve far desistere dalle nostre posizioni, e non lo fa, infatti, come sempre accade. Allora, in attesa di, del collegamento con questa compagna, vi lasciamo con una canzone di Kalashnikov che in a questo forse si collega bene. Pronto? Pronto? Pronto? Pronto, eccoci qua. Pronto. Ce l'abbiamo fatta. No, no, siccome ogni volta noi con i telefoni non abbiamo un buonissimo rapporto, finisce sempre che ci incartiamo. Allora, ciao, siamo qui, siamo molto contente di averti con noi, perché stiamo facendo questa disamina nel nostro percorso verso il 25 novembre come coordinamenta, sulla norma e sulla legalità, cioè in pratica contro la norma e contro contro il concetto di legalità, e di conseguenza poi la seconda parte sarà sulla detenzione femminile. perché chiaramente le donne vivono in maniera particolare questa esperienza, che insomma non vorrei che vivesse nessuna, intendiamoci. Ecco, e quindi volevamo sapere da te, dato che avevamo scambiato pensieri che erano molto interessanti, che ce ne facessi partecipe. Va bene, allora io inizio con una premessa per me doverosa. Io non ho ancora avuto, e onestamente spero di non averne, ma non ho avuto esperienza di detenzione, quindi tutto ciò che vi posso raccontare, tutte le riflessioni che ho fatto e che abbiamo fatto con alcune compagne, derivano dai racconti di altre persone che sono state in carcere, insomma. Questa è una premessa che ci tengo a fare, perché credo che parlare di carcere e di cosa si vive all'interno possa farlo solo chi c'è stato. L'esperienza è molto forte e di conseguenza io posso solo raccontare quello che mi è stato raccontato. Però a partire da questo, è vero anche che io faccio parte, come voi e come tante persone, di quelle persone che alla fine hanno deciso di uscire dal criterio della norma, dai criteri di quantomeno di distinguersi, se non di lottare, da quelli che sono i criteri che regolano e che normano appunto questa società, che vuol dire anche a questo punto rifiutare il criterio di legalità e illegalità per prediligere ad esempio quello di giusto o sbagliato per me. E fare questo ovviamente ci porta tutte a considerare la possibilità di avere poi a che vedere un momento o l'altro della propria vita, della propria attività con il carcere. E questo quando avviene, cioè il momento in cui purtroppo siamo costrette ad essere detenute, il carcere, dai racconti che ho raccolto e che ho avuto, ti piomba addosso con tutta quella violenza di quelle norme che tu hai voluto rifiutare. Allora se sei una compagna, ad esempio, e quindi hai voluto portare a decostruire i criteri che normano la figura della donna, o che vogliono e pretendono qualcosa dalla figura della donna, ti ritrovi in una sezione femminile con una serie di altre donne che magari questo discorso non l'hanno mai fatto e non hanno mai voluto distinguersi da, certo, questo, piuttosto che tanti altri piccoli esempi. Questo non è un caso, e faccio una piccola parentesi, che si dice spesso che il carcere è fuori da questa società, ma è neanche parte evidente, mi piace dire, nel senso che è retto proprio su tutta una serie di schemi, di sistemi, di dispositivi che poi regolamentano la società, solo che all'interno del carcere sono più evidenti, sono più forti, come proprio perché va controllato, no? Allora, se lo guardiamo con uno sguardo attento, allora possiamo vedere e intravedere all'interno di questo, proprio perché più evidenti, tutta una serie di aspetti che ci saranno utili, diciamo così, nelle lotte all'esterno, no? Di questo carcere. E dico questo perché ho ben presente un paio di opuscoli che sono usciti proprio analizzano il carcere come criteri economici, ad esempio, certo, e che regolano la società. Parlo di un opuscolo di Compagni di Monza, Compagni e Compagne di Monza, che si chiama Girotondo. È vero però, tornando alla vita all'interno del carcere, che di primo acchito ti piomba addosso con violenza, e quindi la percezione, se non è di disorientamento iniziale, quantomeno è una forte percezione di diversità. Cioè, tu, persona che hai rifiutato tutta una serie di criteri e di norme, ti ci trovi all'interno. E a questo posso citare il racconto che mi aveva fatto questa compagna, che diceva: sai, io non ho mai neanche riflettuto sul mio essere donna e cosa volesse dire. Io mi considero una persona che si autodetermina, però poi mi sono ritrovata all'interno della sezione femminile a dover magari protestare per delle banalità o per una serie di questioni, e mi confrontavo con delle donne che erano completamente sprovviste degli strumenti, no? di lotta, perché erano le donne di, cioè che per i loro problemi venivano risolti dal compagno, il fratello, il marito, e quindi semplicemente si trasformava in una sorta di protesta fatta ai colloqui o via lettera, e loro avrebbero poi provveduto, così come erano in questo senso le gerarchie interne, cioè chi era quella più importante o la cui opinione contava di più non lo era tanto in base a se stessa, quanto piuttosto in base alla persona che stava fuori e che quale posizione ricopriva all'interno, ad esempio, di una serie di dinamiche di strada, mettiamola così. E questa compagna si era trovata proprio un po' in difficoltà, perché non si era mai considerata donna in questo senso, ma per poter vivere all'interno di questa condizione, e non solo vivere e sopravvivere, ma magari agitarla, doveva fare i conti proprio con questo aspetto, che all'esterno magari invece diventa solo un criterio di selezione delle relazioni, mettiamola così. E così altre cose piccole, perché alla fine, appunto, come vi dicevo prima, carcere è altro mondo, ma è il nostro stesso mondo, no? Se ci vuoi stare con la tua etica e con la volontà di resistere, devi confrontartici, e non è facile, soprattutto non è particolarmente arricchente per la nostra figura, diciamola così. Allora un'altra compagna raccontava della difficoltà con cui lei a un certo punto ha dovuto dirsi: beh, ma io non posso protestare e resistere a ciascun sopruso, il carcere è fatto di soprusi, il carcere è fatto per annientarti, io non posso resistere sempre agli stessi, quindi devo mettermi l'anima in pace, che non mi bastano 24 ore se dovessi lottare da sola contro tutte queste cose. Allo stesso modo però non si voleva e non poteva ritirarsi, diciamo così, a quella che ad esempio è un altro parte evidente delle sezioni femminili, che è la cura del corpo, no? Tutte le relazioni passano attraverso la cura del corpo. Ora, non credo che nessuna di noi tutti i giorni basi le proprie relazioni sull'andare a farsi fare la manicure, invece lì se vuoi avere delle relazioni ci passi anche in questo modo qua, no? E questo è anche il modo di difendersi, no? Quindi se non vuoi lottare ma vuoi sopravvivere, che fai? Ti rinchiudi alla ricerca di quel minimo spazio concesso che ti viene dato, che possa essere solo tuo. Allora c'è una fortissima cura del corpo, attenzione ai particolari, ci si veste bene, ci si pettina, e però questa compagna che ha imparato lì, ad esempio, a farlo e a badare così tanto al proprio corpo come forma di resistenza, era anche in difficoltà con se stessa, perché temeva e vedeva all'interno di questo la possibilità di ritirarsi, non so come dire, di sentirsi poi ad andare in una posizione di difesa, che non avrebbe agito, non avrebbe combattuto, no? Io ti volevo fare una domanda. L'altro mercoledì abbiamo guardato i dati della detenzione femminile rispetto alla detenzione maschile. Ovviamente ci siamo accorte che il numero è decisamente molto, ma molto inferiore, e solamente nelle grandi città troviamo comunque un numero cospicuo comunque di detenuti femminili. Noi volevamo sapere se magari avevate ragionato anche sulla motivazione della differenza che c'è tra, appunto, detenzione femminile e detenzione maschile, ma anche rispetto non tanto alla detenzione poi all'interno del carcere, ma anche il processo poi che porta ovviamente ad arrestare più uomini che più donne. Ma guarda, allora noi di questo in realtà le nostre riflessioni stavano piuttosto proprio sul punto di vista di compagne che potrebbero finire in carcere, quindi a ricavarci degli strumenti. Mi viene da dire però che, come anche per le compagne, cioè ci sono molte meno compagne anziché uomini, no? E che passa tutto attraverso alla fine una differenza della presa presa d'azione, cioè della volontà di agire, di trasgredirle, anziché di comunque occuparsi degli aspetti del reale e quindi anche volendo di trasgredire appunto queste norme. Allo stesso modo la parte maschile, sono parole fatte, però è vero che si è più baldanzosi, cioè hai più, anche se penso ad a un criterio di persone così, quelle che popolano i quartieri, il ruolo della donna è ben diverso da quello dell'uomo, no? Quindi è lui che svolge una serie di affari, le donne si occupano di retroguardia e allora sono molto meno esposte. E tant'è che appunto poi una buona parte della popolazione di detenute è per prostituzione anziché per comunque una serie di reati legati allo spaccio, no? Però sono veramente poche quelle che poi invece si mettono in campo. Appunto, di solito il ruolo è quello un attimo di retroguardia, quindi molto meno pericoloso. Ecco, quello che a me viene da dire. Certo. Senti, io volevo farti un'altra domanda, anche un po' spostando l'oggetto. Scusa, che qua abbiamo dei riverberi. Troppo alto il volume della cassa. Molto male. Sentivi la mia voce metallica. Ok. Per sentirti avevamo alzato al massimo. Senti, io invece ti volevo chiedere una cosa rispetto ai CIE, nel senso che quando si parla di detenzione poi si finisce spesso a parlare soltanto di carcere e ci si dimenticano queste altre istituzioni totali che sono i centri di identificazione ed espulsione, che appunto invece sono una novità, diciamo, importante degli ultimi decenni, anche perché adesso è stato introdotto il reato per via amministrativa, quindi diciamo diventa sempre più facile incarcerare e privare la libertà personale, ed è anche un'istituzione carceraria chiamata detentiva che passa tanto per la condizione, cioè invece che venire rinchiuso per un fatto che si è commesso, per un reato che si è compiuto, si viene rinchiusi semplicemente per essere in un determinato modo clandestini o comunque irregolari. E allora volevo sapere, visto che questo fa parte anche della tua esperienza, che cosa hai pensato al riguardo? Sì, guarda, la nascita dei CIE e il suo anche la questione del reato di clandestinità è veramente un po' diverso rispetto alla questione detentiva. Lì ci sono degli altri aspetti della società che vengono messi più in evidenza che nel carcere, quei sono quelli che ai tempi, quando ancora c'era la vicenda delle ribelli di Corelli, mi piace ricordare, di Joy e Helen, si andava a mettere il dito su quella che è la condizione della detenzione di quelli che sono considerati gli esuberi di una società. Proprio il CIE va a raccogliere quelle sacche che non servono più a nulla, no? Non servono più a nulla, non sono più produttive. E senti, volevo chiederti una cosa. Secondo te, così diciamo, sia per l'esperienza di rapporti con compagne, sia per l'esperienza di rapporti invece con donne che hanno avuto l'esperienza della, chiamiamola, detenzione, perché in effetti è sempre una detenzione nei CIE, pensi che il rapporto di una compagna con il carcere e invece di una donna con il CIE abbia una differenza sostanziale? Ma onestamente in parte credo di sì, ma proprio perché la compagna, grazie ad un suo percorso, mettiamola così, o a una sua attitudine, è dotata di maggiori strumenti, quantomeno di resistenza e di rivalsa, no? E quindi mi immagino e penso a quelli che sono poi la miriade di soprusi e di violenza, a maggior ragione questo all'interno dei CIE, dove i carcerieri sono maschi all'interno, certo, delle sezioni femminili, mentre nelle carceri no. Quindi, sì, una compagna, diciamo così, ha sempre quell'aura di maggiore difesa di sé proprio perché se stessa, no? Certo. Una donna ha meno strumenti, ma allo stesso modo anche più, magari non avendo messo in discussione una serie di aspetti, è più portata anche ad approfittarne nel senso buono del termine, nel, certo, senso che è un cercare di sopravvivere facendo uso di quelli che sono degli strumenti, certo, che ti vengono dati. Certo, no? Certo. Sì, mi ricordo, insomma, così parlando, confrontandoci una volta, che mi avevi detto che parlare del carcere, comunque conoscere l'esperienza delle compagne, confrontarsi con l'esperienza delle compagne, ci mette anche in condizioni di essere più forti rispetto a una prospettiva di lotta, dato che in questo tipo di società il carcere viene sempre posto come prospettiva nei confronti da questo tipo di sistema, in maniera particolare nei confronti di chi esce dalla norma, da chi vuole riprendersi la vita in maniera molto semplice. Sì, sì, infatti questo è un aspetto a cui io tengo molto, e è per questo anche che vi raccontavo tutte queste, sì, piccole esperienze, perché credo che conoscerle, parlarne, cercare di superare questo piccolo limite che è quello di individui, appunto, che vogliono rompere la norma, ma che poi da questa norma vengono travolti, certo, una volta, sì, che, sì, ci si ritrovano. Ci serva da una parte per arrivare meno sprovviste di mezzi, certo, al momento in cui, quindi fa anche un po' meno paura, no? Certo. E nel fare meno paura c'è anche l'aspetto di l'apertura di un ulteriore campo possibile di lotta. Il carcere non è solo un luogo di repressione, a maggior ragione lo vivi meglio se all'interno di questo apri un campo di lotta, appunto, certo, una volta che sei detenuta. E per fare questo hai bisogno di queste coordinate, perché sennò costruisci tutto da capo, no? Tutte le volte ognuna di noi entra e fa la sua esperienza individuale. E no, questo è importantissimo, ci dovrebbe dare una grande forza. Infatti noi ti ringraziamo tantissimo di questo contributo, perché penso a voi sia molto, non, al di là del fatto originale, perché è una prospettiva che mi pare che non sia stata affrontata, invece meriti moltissimo, e poi proprio a noi personalmente, perché di fatto ci hai aperto un orizzonte di discorso che potremmo affrontare, che riteniamo molto importante. Ti ringraziamo, sì, tantissimo. Sono molto contenta, grazie a voi. Grazie, ciao. Ciao, ciao a tutti, ciao, un bacio, tutte, ciao, ciao. La parentesi di Elisabetta. Ciao a tutte. Incivili. Qualche giorno fa su un canale della televisione di Stato è passato un servizio incentrato sul fatto che dai dati desunti dalle compagnie di assicurazione una percentuale altissima di cittadini e cittadine non paga l'assicurazione della macchina, moto, motorino, cioè del veicolo con cui circola. Il servizio TV era tutto incentrato sulla rintracciabilità e punibilità dei soggetti in questione, che pensano di fare i furbi, tacciando di incivile chi non paga l'assicurazione e dando una risposta di controllo e repressione. È in preparazione, infatti, un sistema generalizzato e capillare di controllo, che attualmente ha delle postazioni sperimentali, ma che sarà pronto fra qualche mese. E che prevede l'installazione di centraline che fotograferanno le targhe dei veicoli in passaggio, trasmetteranno i dati che verranno confrontati con quelle delle assicurazioni e immediatamente si vedrà se un veicolo non è assicurato. Si procederà quindi all'azione punitiva in automatico. Quando negli anni del cosiddetto boom economico, man mano, è passato il concetto di assicurazione obbligatoria dei veicoli, tanto che si era arrivati ad una percentuale molto alta di veicoli assicurati e chi non era assicurato e assicurata era veramente una mosca bianca, non era dovuto al fatto che le italiane e gli italiani erano diventati civili, ma al fatto che avevano una certa tranquillità economica. E così ora tutte le anime belle che parlano di inciviltà non pensano che forse il problema passi attraverso il modello produttivo e che se gli italiani e le italiane non pagano l'assicurazione ai loro veicoli è forse perché non se lo possono permettere e che se non si possono permettere e che non si possono permettere neanche di andare a piedi o con i mezzi pubblici perché le città e la vita e i lavori della maggior parte della gente sono legati alle necessità alla necessità della macchina. Questa è l'impostazione del modello sociale e non si tratta di civiltà o di inciviltà, ma gli aspetti culturali sono conseguenza di quelli economico-produttivi e non viceversa. E questo vale anche per noi donne rispetto all'oppressione e alla violenza maschile. Il modello neoliberista dà una risposta repressiva e punitiva ai problemi sociali. La povertà è un delitto, la legge è un feticcio, chi trasgredisce al carcere come probabile orizzonte. Ciao. Scheming, I know I must be ghost of a chance with you. If you'd surrender just for a tender kiss or two, you might discover that I'm the lover meant for you, and I'll be true. E in questo secondo spazio di trasmissione continuiamo quindi a parlare di carcere e detenzione femminile e vorremmo adesso leggervi un pezzo che riguarda proprio il concetto per cui appunto si combatte la norma e poi se ne viene travolte nel momento in cui si viene privati della propria libertà e ci si ritrova in una struttura carceraria. Tutti i dispositivi di controllo che permeano la società all'esterno ovviamente vengono amplificati in questo micromondo che sono le carceri e infatti all'interno i detenuti o le detenute che continuano a non rinunciare, che non rinunciano alla propria identità e alle proprie aspirazioni e stili di vita e quindi continuano a ribellarsi al sistema costituito, ovviamente si vedranno negare tutta quella serie di misure alternative di detenzione o di permessi di libera uscita, perché appunto il carcere serve proprio a reindirizzare entro la retta via, dunque che tu sia ad un colloquio per la libertà provvisoria o che abbia chiesto una misura alternativa di detenzione come gli arresti domiciliari, devi convincere l'assistente sociale, lo psicologo del carcere che tu voglia rimetterti in questa società secondo diciamo un modello normalizzato di vita, dunque cioè devi aspirare a un lavoro qualsiasi che ti consenta di fare la tua vita tra famiglia, lavoro e chiesa. Sì, a proposito di questo volevamo leggervi dal libro di Angela Davis, Aboliamo le prigioni, contro il carcere, la discriminazione e la violenza del capitale, edito da Minimum Fax, un pezzo che lei riprende da Marzia Banni, un pezzo del 1999 che dice: mi hanno detto che non uscirò mai di prigione se continuo a combattere il sistema. La mia risposta è che bisogna essere vivi per uscire e l'attuale livello di assistenza medica equivale a una condanna a morte, perciò non ho altra scelta che continuare. Le condizioni qui dentro rievocano costantemente passate esperienze di violenza e oppressione, spesso con risultati devastanti. A differenza di altre detenute che si sono fatte avanti per rivelare le loro impressioni sul carcere, non mi sento, virgolette, più sicura qui perché, virgolette, gli abusi sono cessati. Non sono cessati. Hanno cambiato forme e tempi, ma sono insidiosi e pervasivi in prigione quanto lo erano nel mondo che ho conosciuto fuori da queste mura. A cessare è stata la mia ignoranza degli abusi e la mia disponibilità a tollerarli in silenzio. My world is empty without you, babe. My world is empty without you, babe. E a proposito del rifiuto della norma e della catalogazione, leggiamo adesso una bella poesia di Denis che ha la rubrica tutti gli ultimi mercoledì del mese, quelle che non hanno il genere ma hanno la classe, ve la leggiamo perché apre scenari rispetto proprio al rifiuto della norma completamente diversi. La poesia si intitola Anelli. Relazione seria e normalizzata cercasi, solo maschi italiani e col portafogli gonfio, che mi portino in braccio per sempre, esattamente come un ergastolo. Colonizzazione e imperialismo gay, si può. In fondo, baby, you're born in this way, ma scegliamo bene i colori delle divise. Diventiamo militari, combattiamo per la patria, otteniamo pure le briciole di questo passo a base di merda. Fatemi perquisire da un poliziotto e non da una poliziotta, che mi pesterà per ammazzarmi. Non per farmi godere, ma ti dico che per me le mimetiche di qualsiasi provenienza non fanno pandan con la bandiera arcobaleno. E poi nel mondo che mi porto nel culo non c'è traccia di sorveglianza. Ed è per questo che quando mi chiedono se sono uomo o donna rispondo: frocio. Non ho un cazzo fra le gambe, sono frocio. Amo una donna e amo un uomo. E chi non è una donna e chi non è donna e non è uomo, contemporaneamente sono bisessuale e poliamoroso, sono frocio. Un banchiere che scopa con un capo di stato è gay, un pompino sulle barricate è frocio. Capitalismo sostantivo maschile, voce verbale del verbo schiavizzare, è un uomo bianco come me, celebrate questo matrimonio omosessuale. Fiori d'arancio, lo spread che sale, dietro l'altare il sogno è un conto mai rosso. C'è solo un dio palestinese, ma biondo, e vi ama se consumate. La prima notte nel vostro letto e tutte le altre in un centro commerciale. Abbiate fedi. Infatti è molto bella perché in pratica la norma e la normalizzazione abbracciano qualsiasi campo, quindi non soltanto quello dell'impegno politico, non soltanto qualsiasi campo del sociale. E Dennis ci ha dato una lettura di un campo specifico in cui anche la norma e la catalogazione possono prendere scenari quasi, cioè possono essere confusi con la trasgressione. La richiesta della norma viene anche dalle situazioni che pensano di essere trasgressive, oppure addirittura c'è questo scenario che lui apre in alcuni versi, no? Come quello in cui dice diventiamo militari, combattiamo per la patria, otteniamo pure le briciole di questo pasto a base di merda. Perché? Perché in certe occasioni che cosa succede a chi chiede riconoscimenti, no? Chi è in una situazione di alterità rispetto a questa società e allo stesso tempo chiede riconoscimenti, che poi è disposto, pur di avere il riconoscimento, magari di andare a bombardare il terzo mondo, di andare a bombardare in Iraq, ma di avere la libertà magari qui di avere le trasgressioni o sessuali o di identitarie che desidera. Oh, cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock. Please hide me, Lord. All on that day, but the rock cried out. I can't hide you, the rock cried out. I can't hide you, the rock cried out. I ain't gonna hide you down. All on that day, I said, rock. Don't you see I need to rock? Lord, Lord, Lord. All on that day, so I ran to the river. It was bleeding around to the sea. It was bleeding around to the sea. It was bleeding all on that day. So I ran to the river. It was boiling around to the sea. It was boiling all on that day, so I ran to the Lord. Please help me, Lord. Don't you see me praying? Don't you see me down here praying? But the Lord said, go to the devil. The Lord said, go to the devil. He said, go to the devil all on that day. E Come ultima informazione, vi volevamo invitare a partecipare alla festa di compleanno dello spazio sociale occupato Ex 51, che compie ben 9 anni, e saranno 2 giornate, venerdì 15 e sabato 16. Venerdì 15 saremo protagoniste in realtà come coordinamento della presentazione del libro Non per odio ma per amore, di Heidi Gaggio Giuliani, Paola Staccioli, con la prefazione di Silvia Baraldini, e a seguire ci sarà ovviamente cena, buffet. E volevamo dire insomma 2 parole intanto su questa iniziativa, poi vi dirò anche di sabato, che è sempre un'altra data molto importante. E il motivo per cui abbiamo scelto di presentare questo libro è perché questo libro narra di 6 storie di donne, di compagne che hanno deciso di opporsi con la loro vita o unirsi insomma a eserciti di liberazione popolare o trasgredire, fare azioni, e purtroppo l'unico elemento in comune che hanno è il fatto che hanno perso la vita in realtà per portare avanti il loro obiettivo politico. E sono delle storie ovviamente narrate in maniera romanzesca, e quindi insomma ci è piaciuto insomma questo libro, ci è piaciuto il fatto che comunque ci è dato la possibilità anche di ricollegarci poi a tutto il discorso che la coordinamenta aveva già in qualche modo poi discusso nell'incontro nazionale separato Memoria Collettiva, Memoria Femminista. E questo perché in realtà siamo convinte che sia sempre necessario raccontare poi la storia da parte di chi la agisce, e non da non con la lettura comunque dei vincenti del potere, che revisionano ovviamente tutto quello che noi siamo e raccontano altre storie. Noi diamo invece la nostra valutazione sia di compagni che di femministe a quello che sono le storie delle persone, in questo caso storie di donne e di compagne di cui non si sa nulla, compagne che vengono trattate marginalmente solo perché ovviamente inserite in un grande contesto dove è meglio narrare la storia a grandi linee senza scendere poi nel particolare, perché scendendo nel particolare verrebbero fuori le contraddizioni e verrebbe fuori il fatto che comunque tutte le motivazioni che ci portano poi a scegliere di fare le militanti sono motivazioni che ci rendono molto più forti poi del potere che ci vuole schiacciare. E quindi insomma prendiamo spunto da questo libro perché riteniamo necessario dover cominciare a narrarci di nuovo, a prendere noi in mano le fila del discorso. Noi dobbiamo lasciare poi le tracce di questa memoria, che deve essere letta e utilizzata come strumento poi da quello che sarà la generazione futura, e noi dobbiamo utilizzare ovviamente quello che ci è stato lasciato, nonostante coperto da tanta polvere e molto spesso nascosto, e dobbiamo ritrovare questi fili che ci hanno portato comunque ad oggi ad essere comunque femministe, anticapitaliste, antirazziste e antifasciste. E questo per quanto riguarda la giornata di venerdì. Per quanto riguarda sabato invece vi invito lo stesso a partecipare alla cena, perché la cena sarà a sostegno delle spese legali dell'occupazione della fazenda che c'è stata nel 2012 nel quartiere di Casalotti, e ovviamente c'è stato uno sgombero, e quindi insomma vorremmo che partecipasse tutti e tutti a questa iniziativa, perché bisogna dare solidarietà ai compagni e alle compagne che comunque fanno lotta politica e mettono in gioco insomma le loro vite. Questo ricollegandoci un po' al discorso contro il carcere che facevamo prima, insomma il supporto di cassa di resistenza o di supporto legale o comunque anche di supporto solidale deve essere un filo che non si deve mai spezzare, perché è la nostra prima arma di difesa contro questo sistema. Ciao a tutte. I'll send a man